Mr. Kilowatt. Alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Parliamo di impianti elettrici stasera. Tutti ne abbiamo uno in casa, ma di solito ce ne ricordiamo solo se c'è un problema. E solo a quel punto ci domandiamo, per esempio, in che stato versa e se addirittura può essere pericoloso. Beh, insomma, iniziamo proprio da qui, dai numeri che il Censis ha elaborato e che fanno il punto sullo stato degli impianti elettrici in Italia. Questi numeri ce li dà però Claudio Zambonin, membro del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, che insieme alla Fondazione Opificium sta portando avanti una proposta di rottamazione degli impianti elettrici. Buonasera Zambonin. Buonasera. Allora, siamo i numeri qui del Censis, partiamo da questi. Quali partiamo sono quelli più numeri rilevanti? Allora, stiamo parlando di 21.600.000 impianti domestici. Di questi 21 milioni è emerso che circa il 30%, quindi 8 milioni, praticamente sono impianti completamente fuori norma. Dei 13 milioni che restano, sostanzialmente abbiamo una situazione che un terzo è completamente a posto, un terzo è a posto dal punto di vista normativo e sicurezza, ma manca della documentazione, un altro terzo apparentemente è a posto dal punto di vista della sicurezza, manca però della documentazione, ma cosa ben più importante, manca di una manutenzione programmata. Allora, quanti incidenti determina in Italia questa situazione degli impianti elettrici, allora, così un po' sconclusionata? Il dato che emerge sono circa 241.000 incidenti all'anno in casa, di cui sono 13.000 incidenti sicuramente dovuti a cause elettriche. Però il dato che più poi balza agli occhi sono una quarantina di morti. E qualche migliaio, se non sbaglio, comunque di persone che bene o male si fanno male, magari fanno un giorno di degenza oppure danni alle cose. E molti di questi danno luogo poi a fenomeni di incendio e quindi abbiamo circa 10.000 interventi dei vigili del fuoco. Tutto questo porta a un bilancio estremamente importante dal punto di vista anche economico per il sistema paese. E quindi voi che cosa proponete per favorire un ricambio di questi impianti elettrici, obsoleti soprattutto? La proposta che il Consiglio Nazionale insieme alla Fondazione Opificium vuole portare avanti alla parte politica è quella di creare o trovare una metodologia per un incentivo fiscale allo scopo di favorire la rottamazione degli impianti elettrici. Però la rottamazione non deve essere fine a se stessa, ma l'incentivo fiscale deve essere sottoposto sostanzialmente a dei requisiti. Primo requisito, l'aumento della sicurezza. Secondo requisito, l'utilizzo di nuove tecnologie. Nuove tecnologie che devono dare adito poi anche a una qualsiasi forma di risparmio energetico. Ecco, infatti questo è il motivo per cui poi ne stiamo parlando qui a Mr. Kilowatt, no? Perché un impianto elettrico più intelligente consente in vari modi di fare efficienza energetica, con la domotica e così via. Dal punto di vista del rapporto costi-benefici, anche per le casse dello Stato, dato che di questi tempi naturalmente la situazione è drammatica, è difficile andare a chiedere soldi. Beh, allora, a livello di ricerca è stato valutato attentamente questa situazione, è stato messo in bilancia quello che lo Stato comunque dovrebbe avere come costi dovuti alla sanità per gli incidenti, ai vigili del fuoco. Dall'altra parte non possiamo dimenticare che è un'incentivazione che passa attraverso un credito d'imposta, insomma. Credito d'imposta che però dall'altra parte prevede che l'azienda che realizza l'opera deve essere pagata in bianco, insomma, per essere chiari, insomma, si fattura in questi casi. Esatto, no? Si fattura, quindi si fattura subito, si paga subito quello che è la parte di tasse. Noi stiamo vedendo quale sarà la percentuale per avere per lo Stato un costo zero. Grazie Claudio Zambonin. Grazie a te. Ebbene, abbiamo parlato di aggiornare, di riqualificare gli impianti elettrici ed è recentissima, insomma, la notizia proprio di una nuova classificazione degli impianti elettrici. Cosa importante anche ai fini di valorizzare l'investimento di riqualificazione che si fa con il riconoscimento di un nuovo status tecnologico. Chiediamo nomi in proposito a Tommaso Prini, che è segretario dell'associazione CSI ANIE. Buonasera Prini. Buonasera. Allora, nuova classificazione degli impianti elettrici. Abbiamo tre livelli. Esatto. Allora, installare in casa un impianto di livello 1 vuol dire preservare in maniera sostanziale l'abitazione dal rischio di incidenti domestici dovuti al malfunzionamento dell'impianto stesso. È una dotazione un po' più ricca di quella che prevedeva la 64.8, cioè la normativa di riferimento, la normativa di riferimento per la sicurezza, prima dell'entrata in vigore di questa variante. Sì, livello 2? Il livello 2 prevede un aumento della dotazione dei componenti rispetto al livello 1, oltre che ad alcuni servizi ausiliari quali il videocitofono, l'antintrusione, il sistema di controllo dei carichi. Quest'ultimo serve per ridurre i consumi energetici e ottimizzare l'uso di energia elettrica. Quindi abbiamo già una componente di efficienza energetica nel livello 2, che viene rafforzata nel livello 3. Il livello 3 è il massimo che è previsto in questa variante della norma e deve prevedere almeno 4 funzioni domotiche, quali ad esempio l'antintrusione, il controllo dei carichi, come dicevamo prima, la gestione comando luci e la gestione temperatura, la gestione degli scenari, il controllo remoto, il sistema di fusione sonora e l'avversione incendio. Dal punto di vista del consumatore, che cosa cambia? Cioè, se uno oggi rifà l'impianto elettrico, deve ricevere qualcosa, un modulo nuovo, in qualche modo l'attestazione del livello? Certo, c'è il modulo di conformità che deve essere rilasciato dall'installatore e l'installatore ha l'opportunità di inserire nel modulo, nella dichiarazione di conformità, il livello al quale è stato realizzato l'impianto. Se l'utente chiede all'installatore di specificargli a quale livello è stato fatto l'impianto, l'installatore ha l'obbligo di dirglielo. Grazie Tommaso Prini. Grazie a lei, buonasera. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.